Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Dovrebbe esserci anche il coach, no? Dan Peterson, buongiorno. Amici sportivi, buongiorno a tutti, buon venerdì a tutti. Coach, oggi ci siamo fatti un regalo, a te ma a tutti quanti, insomma. Abbiamo ricostituito la coppia di allenatori che ha costruito la dinastia dell'Olimpia anni 80, perché c'è qui con noi Franco Casalini. Buongiorno Franco, grazie. Buongiorno, ciao Daniel Lutz. Ciao Franco. Come stai? Ciao ciao. Coach, qual è stata l'importanza di Franco Casalini in quella dinastia? Che poi ha proseguito da solo, vincendo la Coppa dei Campioni quando tu ti sei squagliato. Franco ha vinto dopo la Coppa Intercontinentale, la Coppa dei Campioni e lo Scudetto, ma io ho detto ai tempi e lo dico ancora che lui era per me, ok, parlo per me personalmente, il miglior vice allenatore in Italia, perché lui aveva una grande conoscenza di basket, cioè nessuno conosce meglio di lui, una grande energia da trasmettere ai giocatori in allenamento, e poi la cosa più importante secondo me per un capo allenatore è un fonte continua di idee, di suggerimenti, di pensieri sulle cose, di valutazione, di opinione, cioè, e non esitava a dire: coach, io penso questo, io penso quello, e questo è importante. Poi dicevo a lui spesso: Franco, forse butto 99 su 100 alla finestra, però penso a tutti, ok? Quindi lui, e poi abbiamo lavorato, cioè 9 anni non sono una settimana, abbiamo lavorato bene insieme, e ho dato anche tanta responsabilità a lui, e lui ha preso ogni singola cosa, fatto un capolavoro. Basta Daniele, che sto piangendo. No, tanto che poi il discorso è continuato in maniera naturale, no? Il discorso continuò in maniera naturale, no Franco? Beh sì, poi sai, in tutto questo c'era un certo Mike D'Antoni, che era un collante fra panchina e campo unico, al quale credo lui non ha più allenato, io ho continuato a allenare, ho sempre cercato un altro D'Antoni, trovandolo in parte, però colpa mia poiché non ho trovato un altro D'Antoni uguale, ma con quel giocatore lì in campo tante cose si risolvevano. Assolutamente. E delle volte la fucina di idee che lui pensava fosse mia veniva da D'Antoni attraverso me. Sentite, signor allenatore, vorrei chiedervi una cosa a proposito di grandi squadre attuali. Le grandi squadre sono quelle che sanno anche mandare dei segnali. Mi riferisco a Siena. Roma alza la testa, vince a Vittoria, fa un'impresa, trova continuità in campionato, c'è Roma-Siena, vince Siena di 20. Io credo che appunto le grandi squadre sono quelle che mandano segnali, e che questo meno 20, confermatemi o smentitemi, possa pesare anche in futuro, possa mettere quel tarlo nel cervello di Roma, che è la sfidante di Siena al titolo. Coach Peterson. Well, assolutamente, ovviamente io e Franco abbiamo vissuto noi insieme un meno 45 a Pesaro, e poi ovviamente senza Meneghin, senza Genelli, senza Gallinari, però abbiamo preso 45 e poi abbiamo battuto loro per lo scudetto, quindi è possibile. Abbiamo avuto un meno 34 a Salonica, però questo è stato meno 20 in casa, e chiaramente è stato un messaggio per tutti che loro non scherzano assolutamente. Roma forse deve solamente adeguarsi allo stress del doppio impegno, cioè Coppa Campionato, Campionato Coppa. Siena l'ha già fatto più o meno l'anno scorso, andando al Final Four e vincendo lo scudetto, ma loro sono... Poi io non so Franco se tu hai, se come me hai fatto dei pronostici, ma io prima di questa partita io vedevo Roma come un serio avversario per Siena. Devo ammettere di aver sbagliato questo giudizio. Ma guarda, è tutto vero naturalmente, però c'ho due considerazioni da fare. La prima è che Siena è più o meno la stessa squadra da 3 anni, certo. E Roma è nuova, e questo cambia quando giochi uno contro l'altro. E seconda, è forse più decisiva in questo particolare frangente: Siena viene arrabbiatissima dalla sconfitta, giocando benissimo, ad Atene, sì. e Roma viene sulle nuvolette per la meritatissima e meravigliosa vittoria, storica vittoria di Vittoria, appunto. E quindi è ovvio che una era più concentrata, più cattiva, più determinata rispetto all'altra. Se a questo si aggiunge anche l'obiettiva superiorità di Siena, perché non c'è dubbio che Siena è più forte a prescindere, poi che vinca o non vinca non lo so, ma Siena è più forte almeno adesso. Il più 20 non dico che si spiega, però quasi. Ma secondo te può essere, ma può anche, pesare? Anche Franco, se tu hai visto la partita, c'eri tu a Roma, c'era Flavio a Roma? No, c'era Flavio e Pessina. Ok, beh, io l'ho visto un attimo, non ho visto tutta la partita, ma c'è stato un attimo, poi ci sono sempre attimi nelle partite in cui Roma, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, era meno 3 e Brandon Jennings ha tirato da 3 e ha sbagliato. Da lì il diluvio universale. Però se lui fa canestro, forse stiamo parlando di un'altra cosa. Può darsi, sempre difficile. Sì, non sapremo mai. Esatto, esatto. Certo, però, è che fra Siena e Roma, se una non fa tutto perfetto, non vince. Se l'altra può fare qualche errore, e alla fine poi nei 40 minuti non c'è niente da fare. Esatto, Siena ti costringe a giocare 40 minuti perfetti, è difficile fare. E poi questo, sai, Siena oltretutto c'ha i due MVP del campionato che vengono dalla panchina, che sono i due lituani. Certo. Quali altre squadre ha i due MVP del campionato, uno per i lunghi e l'altro per i piccoli? Kaukeitas e Lavrinovic sono due giocatori unici nel panorama, non solo italiano. Per me loro due possono, Lavrinovic sicuro può giocare NBA, tanto per dire, come mai non gioca l'NBA mi è un mistero, però uno parla dei giocatori europei che sono andati all'NBA, non so, per vincere un campionato, con tutto rispetto per Bargnani che l'altro ieri ha fatto 25 punti, però per vincere un titolo in Italia se deve cominciare con Bargnani o Lavrinovic è una scelta durissima, c'è tanto per dire. Mm-hmm. Prima di andare a Milano e di farvi giocare in casa, io vi vorrei chiedere qualcosa sulle due sponde bolognesi. La Virtus che cambia allenatore con Bonicioli torna alla vittoria, Fortitudo alla quale si sta respirando un'arietta abbastanza pesante per la panchina, si parla di Gregor Fucca, di Dikudis, insomma due squadre che stanno attraversando momenti non particolarmente positivi. Gran casino la Fortitudo, Franco. Ma sai, quando gli anni le stagioni cominciano con dei problemi, poi bisogna aggiustarli in corsa, è difficile. L'anno scorso è stato un miracolo quello di Milano, appunto miracolo a Milano, perché sono riusciti a fare quello che hanno fatto partendo da una situazione quasi disperata dell'inizio stagione. Però è un caso unico, lo si ricorderà credo negli annali proprio per quello. Mi auguro che la Fortitudo riesca a fare altrettanto, sai, poi è coinciso anche col primo anno delle finestre, no? Col mercato aperto, magari col mercato aperto avrebbero già messo dentro Strawberry e Fucca, avrebbero già cambiato le cose, avrebbero preso delle decisioni più diciamo così, più facili. Franco, come avevo previsto anche qui una rinascita di queste due squadre, e l'anno non è finito ancora, perché sì, mi piace Boykins, mi piace Ford, come poi ovviamente il nuovo allenatore dà sempre un impatto per 3 settimane, dicono, ok? Beh sì, la Virtus comunque è già un altro paio di maniche, è una squadra è già fatta, è già forte, sì, a mio modo di vedere, ha quintetto, ha leader, ha gerarchie, sì. Quindi credo che la Virtus... Forse tutto lavori in corso. Esatto. Sì. Fortitudo lavori in corso, ma lavori da fare anche alla svelta, perché è un trend da invertire ed è già stata fissata la data, il giorno oltre il quale non si può andare come programmi, che è quello del derby proprio con la Virtus. Virtus che invece, io continuo ad avere grande fiducia in questa squadra. Treviso mi sembra un sottomarino, perché è poco considerata, non se ne parla tantissimo, però una squadra che sta continuando a crescere. Franco. Treviso è solida, magari non è, diciamo così, sotto le luci della ribalta, ma sotto sotto è solida, ha dei giocatori, forse non saranno negli highlights di fine stagione, ma saranno negli high stats di fine stagione, perché Rancic, Lorbeck, Dixon, Neil, poi c'è questi due giovani che insomma Rullo e Renzi sono i due giovani, diciamo così, più sulla soglia dell'esplosione nel campionato di Serie A, perlomeno di prima serie, e quindi aspettiamo tutti con fiducia. Domani credo sia un buon test a Bologna, proprio con la Fortitudo. Partita che racconterai, tra l'altro. Sì, sarò lì domani e spero di assistere a una grande partita. Sono sicuro che sarà così, perché negli ultimi 10-15 anni, fai conto che negli ultimi 9 anni, esclusi gli ultimi 2 del dopo Lorbeck e del dopo Serragnoli, hanno fatto 5 finali su 9 quelle due squadre, sì, lì. Quindi stiamo parlando del Gotha per il basket italiano. Coach, è tornata a Treviso secondo te ad alto livello dopo l'anno scorso difficilissimo? Fatto la descrizione di loro perfetta, in silenzio, sotto acqua, stanno navigando senza fare tanto rumore, eccetera, e vediamo se riescono a proseguire, e anche come ha sottolineato Franco, lanciando qualche giovane che io ho sempre sotto tutti questi discorsi, non so come la pensa Franco, tutti questi discorsi che abbiamo su quanti giocatori italiani e quanti non giocatori italiani. Se vengono fuori i bravi giocatori italiani, credetemi, le società li faranno giocare. Il problema è produrre altri Bellinelli, altri Bargnani, altri Gallinari, altri Renzi, altri Rulo che gioca a Treviso, questi ragazzi qua, Melli che gioca a Reggio Emilia, altri Vitale. Si produce questo tipo di giocatore, le squadre, gli allenatori li metteranno in campo, ma matematicamente. Assolutamente, al 100% concordo. Io sono del parere che in campo ci va non lo stato civile, ma lo stato tecnico. Bravo, poi è chiaro che bisogna tutelare i giocatori italiani, per carità, però onestamente non mi ricordo una miriade di giocatori italiani senza lavoro, pur con tutte queste regole. Quindi, anzi. Quindi ce n'è uno, che è Gregor Fuchs, che è sulla soglia di riprendere, esatto. Giustamente. Sì. Visto che ci siamo, però parliamo anche di Milano. Insomma, Milano che con il rientro di Vitali sembra essere riuscito quantomeno a vedere un po' la luce, no, del tunnel dove si era infilata. Cosa dici, Franco? Ma io dico che Milano va attesa quando sarà completo, con Pop Sow che rientra, e che quindi si saranno allenati continuativamente per una, due, tre settimane. Allora potremo dare un giudizio. Certo è che fino a questo momento, e la società stessa credo ne sia cosciente, ha fatto meno del previsto, perché è vero che ne ha perse tante in volata, però sai, quando sono tante comincia a venire il dubbio che non sia solo sfortuna, anche se i numeri parlano ancora di contingenze, perché 5 partite non sono niente statisticamente parlando. Tuttavia il fatto che, uno, rientrando Vitali abbiamo vinto 2 partite, e l'ultima in modo convincente, perché con Cantù è stata la prima partita forse veramente convincente della Milano di quest'anno, vuol dire che ci sono tutte i prodromi per far sì che Milano perlomeno bissi il risultato dell'anno scorso, che vuol dire le semifinali. Quindi aspettiamo, comunque il giudizio è sospeso, sono lavori in corso anche lì come per la Fortitudo. Tra poco torniamo a parlare di Milano, ma prima di salutare Coach Peterson, risultati NBA della notte, c'erano due grandi partite. Boston che ha asfaltato Detroit 98-80 con Rondo che ha battuto Iverson nel faccia a faccia, e i Lakers che continuano la marcia 105-92 sul campo dei Suns a Phoenix, con Radmanovic che fa 5 su 5 da 3 punti. Però poi ne parliamo anche con Franco Casalini, anche i messaggi che ci arrivano battono sul tasto Bargnani alla piccola. Coach Peterson, io qualche perplessità su Bargnani alla piccola, ha fatto una grande partita, 25 punti l'altra sera, però qualche perplessità ce l'ho, difensiva. Guarda, domani esce un mio articolo sulla Gazzetta, non su di lui, avevano scelto di parlare di lui, ho scelto di fare un altro articolo, ma la domanda che mi fanno tutti i giornalisti, come può Bargnani fare 0, poi 19, poi 0, poi 25, poi c'è alti, bassi, ma più alti non è possibile, più basso non è possibile, e Bargnani deve trovare solamente la costanza. Questa mossa alla piccola, io non dico che vale per 82 partite su 82, ma 41 sì. Loro devono marcare lui, perché lui è veloce, lui salta, lui è agile, lui fa tiro da tre, cioè lui è un'ala piccola, è caso che lui deve 2,13 metri. E per di più l'altra cosa, che Bargnani deve dimostrare di poter difendere, correre, prendere rimbalzi come ala piccola. Se lo fa, attenzione, Bargnani può decollare. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, ciao Franchi. Ciao Danieluz, a presto, ciao. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Franco Casalini qui con noi oggi, 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Abbiamo un sacco di messaggi, tra poco cominciamo a leggerli. Franco, però rimaniamo su Bargnani alla piccola. Coach Peterson è d'accordo su questo esperimento? Io lo sono un po' meno, perché mi penso alle ali piccole che Bargnani si trova e si troverà a marcare. Nell'NBA non lo vedo così pronto. Ma guarda, lì il discorso secondo me va fatto in maniera più globalizzata. Intanto l'equilibrio del quintetto con lui alla piccola, se è migliore o se è peggiore, questa è una cosa che va verificata in tante partite. Secondariamente, quante volte lui dovrà marcare un'ala piccola che gli va contro, che gli penetra addosso, che si muove. Io ricordo molti eccellenti scivolamenti suoi, certo contro gente un pochino meno veloce di quella che sarà chiamata a marcare, però in una partita quante volte ci sarà l'isolamento contro di lui tale che debba essere per forza lui a marcarlo? Questa è una cosa. Il tutto va poi detratto da quello che lui come alla piccola farà contro i suoi avversari. Certo. Quindi se l'hanno fatto a Toronto, io credo che siano abbastanza accorti, e poi conoscendo Colangelo, Gherardini e compagnia bella e l'allenatore naturalmente, credo che non lo so, è da verificare anche quella, però ho abbastanza fiducia. Mentre invece Bellinelli sembra, adesso bisogna capire come sta la trattativa, però sembrerebbe in procinto di passare in New Jersey Nets, anche se qualcuno dice che la trattativa è sfumata. Finalmente potrebbe trovare un po' di campo, anche perché ne abbiamo parlato con Dan Peterson diverse volte, la gestione di Don Nelson è assolutamente inspiegabile. Visto? Ma lì la va a fortuna in un certo senso, poi non solo, anzi è una piccola parte, però è una componente. Io mi ricordo Rusconi quando andò a Phoenix, insomma non si è preso con l'allenatore, era nel terzo quintetto d'allenamento, cioè non vedeva neanche la tribuna a momenti, gli ha fatto pagare diverse volte il biglietto per andare a vedere le partite di Phoenix all'epoca, e quindi è una sfortuna. E d'altro canto, così scaramanticamente e tradizionalmente e cabalisticamente, potrebbe essere una bella cosa andare in Nets, perché già a suo tempo il primo grande europeo che andò nell'NBA, che era Drazen, a Portland non si prese con Adelman che era l'allenatore, andò a New Jersey e esplose come sì. Era. Insomma, magari Marco Bellinelli è un bravissimo giocatore, però con tutto il rispetto non è Drazen Petrovic, però da questo a non giocare mai francamente non esiste proprio, con tutta la broccheria che vediamo nell'NBA. Onestamente Marco meriterebbe di giocare. Qui la cosa curiosa è che a parole insomma c'è feeling tra i due, no? Don Nelson dice no, Bellinelli lo voglio, lo faccio giocare, vedrete, prospetto. Bellinelli, abbiamo parlato con lui non so, 3 settimane fa, sì. Simpaticone Don Nelson, sto bene, città mi piace, mi piace. Però credo, San Francisco è mica brutta. Sì, però se la vedi dalla panchina è un po' meno divertente. È un po' meno Golden Gate. Senti, invece l'avvio di New York con il tuo vecchio playmaker in sella ti sorprende? Ottimo avvio di New York, aspettando sì. Gallinari che non si opererà, cioè chi ci chiede notizie fresche, mega consulti dal chirurgo che ha operato Larry Bird, Gallinari deve continuare a curarsi ma non si opera. Mike che parte bene a New York è una non notizia? In parte sì, perché Mike lo fece lo stesso a Phoenix. Cioè lui c'ha un basket talmente prorompente, oltre che spettacolare, che beh, e soprattutto un basket che diverte i suoi giocatori, quindi i giocatori sono subito gasati quando sono con lui, perché si divertono sia allenarsi che soprattutto a giocare, e questo dà una carica enorme. Da questo essere così subito positivo bisognava avere molta fiducia, io l'avevo, però poi è difficile pronosticare un avvio così. Io mi auguro che vada ancora meglio alla fine, che Mike dimostri ancora una volta quanto bravo è. Tanto ha tagliato la testa di Stephon Marbury, la prima testa caduta nel cesto è questa, probabilmente anche gli altri hanno colto il segnale. Flavio? Sì, ha avuto il coraggio anche di fare delle scelte abbastanza impopolari, però D'Antoni ha rilasciato un'intervista nei giorni scorsi alla Gazzetta dello Sport in cui diceva: io sono venuto qui per cambiare la mentalità di questa città, di queste persone che hanno la mentalità perdente, quindi non c'è andato leggerissimo e forse non poteva fare altro, non so cosa ne pensi. Beh, ricordo il labiale di Mike nella prima o la seconda partita che diceva non capiscono niente, rivolto al pubblico. Che poteva sembrare un inizio diplomaticamente, lo era effettivamente, non proprio consono, però poi il lavoro, i risultati e soprattutto la grande umanità di questo uomo, di Mike, fanno il resto. Del resto, sai, in un certo senso è più difficile andare in una realtà perdente, perché vuol dire che di materiale non ce n'è molto, però è anche più facile perché tutti aspettano, non puoi fare, di peggio non puoi fare, e poi aspettano il messia, cioè quello che gli ridà il sorriso, e quindi una volta che hai trovato questo va tutto con il massimo delle motivazioni e della gioia di giocare, aspettando il giovane Gallo. Quello, guarda, io sono molto ma molto preoccupato. Sì, perché sarebbe un delitto. Se, certo, come fai a dir di no quando si sceglie New York e allenato da Mike D'Antoni? Franco, però forse era presto, ma non lo so, forse non era presto, forse era giusto fare così. Certo è che un altro anno di consolidamento giocativo e fisichivo sarebbe stato molto ma molto più sicuro per lui. Poi magari andava a finire col Don Nelson del momento e non giocava mai lo stesso, l'anno prossimo dico, però sì, però vedi Rudy Fernandez, ne abbiamo parlato tante volte anche con Sasha Georgievs, no? Lo dicevamo l'anno scorso prima delle scelte, abbiamo parlato anche con Vittorio quando è stato qui, eravamo di questa stessa linea, un altro anno qui magari non a Milano, magari in un top club, magari al Panathinaikos, magari alla corte di Ettore Messina, al massimo livello per fare l'ultimo gradino e andare poi di là da, che ne so, campione d'Europa, da giocatore comunque, sì, affermato. Anche perché io dico una cosa, questi ragazzi giovani europei, va bene, loro hanno fatto faranno, e glielo auguro, una grande carriera nell'NBA, però a fine carriera, se hanno una botta di fortuna mai vista, c'hanno 1/2 anelli. Non potranno mai dire io ho vinto 4 scudetti, 6 coppe dei campioni, come ha fatto Meneghi, come ha fatto Bodiroga. Cioè è più bello stare qui perché vinci delle robe, là o quella o niente nella tua vita. D'accordissimo. Poi vanno a vedersi il conto corrente bancario, si consolano in fretta. Però voglio dire, uno fa sport anche per vincere, non solo per... Certo. Poi non sarà un caso che i più grandi europei dell'NBA siano andati di là dopo aver vinto da questa parte dell'oceano, sì, dopo, sì, essersi, sì, fatto un certo, vedi, tipo di carriera. Vintus, vedi Georgievs, magari vanno là a fare un'esperienza, lo stesso Rigodò. Provarla l'NBA, non c'è dubbio, il nostro sport vive perché c'è l'NBA, intendiamoci, non voglio fare il detrattore di quello che fa sì che il basket sia famoso nel mondo più di altri sport che si giocano anche con altre parti del corpo, per intenderci. Però il giocatore europeo secondo me deve fare la sua carriera qui. Fra l'altro, onestamente, una gran differenza di soldi con Panathinaikos russe o spagnole, Olympiacos, adesso non è che ce ne sia tanta, certo sono meno squadre che hanno queste, sì, possibilità. Sì, sì, no, ma come diceva lo stesso Sasha, lui parlava della sua esperienza a Portland, diceva io qua ero abituato ad essere numero uno, ad essere quello che vinceva, ad essere l'ombra del partito nel Real Madrid, nel Barcellona, nella nazionale jugoslava che vinceva i mondiali. Vado di là, faccio il cambio, 3 palleggi, 2 passaggi, un tiro, sì, esco, tutti mi danno 5, bravo, buona partita cosa? Io la domino e come diceva Franco, vincere in Europa non fa poi schifo. No, ma scherzi. Ma tu prova a pensare il palmarès di un Meneghin, di un Bodiroga, ripeto, di un Siskauskas, di un Jasikevičius, a fine carriera i nipotini diranno, mi ricordo quando ho vinto... Quella finale di Coppa dei Campioni, invece là cosa dicono? Mi ricordo quando ho giocato 7 minuti a Phoenix, sì, ma sì, che no, cosa me ne frega a me? Poi non so se sei d'accordo, anche tecnicamente negli ultimi anni a me l'NBA piace sempre meno, si vede pochino da un certo punto di vista, tanto atletismo, tanto, sì, tanta forza, però poi organizzazione. Sai, due cose, l'NBA è in grande quello che anche tutto il basket onestamente sta diventando, cioè un gioco molto meno vario, molto meno fantasioso, molto meno di allenatori ma più di giocatori, quindi più di playground. Secondariamente però ci sono anche due NBA, c'è l'NBA della regular season, che è quello che dici tu molto spesso, facciamo la partita, eccetera. Poi c'è l'NBA dei playoff, che onestamente raggiunge vertici ancora inarrivati e credo inarrivabili per il resto del mondo. Palla spicchi. Eccoci tornati, sempre con noi Franco Casalini, con il quale microfoni spetti abbiamo fatto delle chiacchiere molto interessanti che tra poco vi giriamo, rendiamo pubbliche, una su tutte la questione tiro da 3 punti. Però abbiamo anche ascoltatori, Atos Bologna, Andrea Siena, buonasera Atos. Pronto? Pronto, eccoci. Sì, buonasera, sono Atos. No, io volevo dirvi questo, io sono dirigente della società di basket che abbiamo circa 160 ragazzi, partendo dai 2003 arrivare all'under 17 maschile e femminile. Sì. Non conoscono un giocatore italiano, cioè il mito dell'NBA, cioè, non esiste il campionato italiano, perlomeno esiste come la Fortitudo, la Virtus o qualche squadra così, ma se chiedi chi gioca nella Fortitudo non lo sanno. Sì, per sarà anche perché gli italiani non sono tantissimi. No, ma a parte quello, cioè io ho mio figlio che tiene per la Fortitudo, viene con me a palazzo, di Mancinelli, sì. Però per fare allenamento usa quella di Parker, usa quella di Bagnani dei Toronto Raptors, usa le altre maglie, ma perché? Perché comunque il nostro campionato è meno seguito, è meno pubblicizzato. Io mi ricordo che ero un cinasto io che quando giocavano dalla Morzatti, cioè, ballavo per avere il loro autografo. Ai bimbi non gli interessa niente. Sì, sarà perché magari non c'erano in giro ai tempi le maglie di Magic Johnson o di Jabbar, almeno con la reperibilità che c'è adesso, non lo so, però senz'altro l'NBA ha appeal sui ragazzi. Franco, che dici? Beh, non c'è dubbio, del resto sono il top, quindi i bambini, i ragazzi pensano al top. Credo che ci siano anche pochissimi ragazzi che hanno la maglietta di un giocatore di Serie B di calcio, avranno quelle di, non so, aiutatemi voi, Maldino, con qualcuno, ecco. Eccetera, eccetera. E questo è abbastanza normale. Da questo però a non appassionarsi e a non vedere, perché il problema è che vedere dal vivo è comunque, deve essere, come dire, per i ragazzi qualcosa di più eccitante che non vedere la televisione, a parte l'imbesuirsi davanti al teleschermo le ore, come sappiamo, non è la cosa massima, però andare in un palazzo, sentire lo scalpiccio delle scarpe, il rimbombo del pallone, il sudore dei giocatori, anche le urla dei tifosi, dell'allenatore, dei giocatori fra di loro, credo che sia quella la cosa che ai ragazzi deve piacere di più, e forse noi dobbiamo insegnargli a farcela piacere di più. Poi da questo a continuare a pensare a LeBron James e compagnia bella, per carità, quelli sono i più grandi giocatori del mondo, ci mancherebbe altro, però una volta abituati a vedere e a vivere e a soffrire nei palazzetti il basket, allora cominceranno anche ad amare molto di più i mancinelli, i cittadini e compagnia bella. Tra realtà e reality, insomma. Bravo, sì. Andiamo alla città campione d'Italia, Siena. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, la domanda riguardava la nazionale di basket. Sì. Dal mio punto di vista abbiamo una delle squadre potenzialmente più forti come talento degli ultimi anni, se non di sempre. Cioè abbiamo giocatori che giocano in NBA come Bellinelli, Bargnani, Gallinari, Ahet e altri giocatori che giocano comunque in Italia ma a ottimi livelli, come Poeta, non so, posso dire da Tome, e altri che stanno venendo fuori come Renzi a Treviso, ma ci sono tantissimi nomi. Sì. E vedere la situazione comunque da nazionale e i risultati che fa contro squadre che hanno indubbiamente meno talento è molto demoralizzante a mio punto di vista. Sì. Andrea, vede, però adesso facciamo rispondere Franco Casalini, però vede, contro quelle che lei dice, Finlandia e compagnia bella, risulta che i nomi che lei ha fatto non ci fossero. Cioè, quanti di questi hanno giocato queste partite? Quanti di questi? Risulta anche che una ventina di giocatori abbondante, facciamo 25, ha detto di no alla chiamata di Recalcati perché avevano altri impegni, altri programmi per l'estate, altre idee, insomma. Quindi bisogna fare i conti con quello che Con i sì che arrivano, Franco. Beh, il discorso è molto complesso. Prima cosa, a mio modo di vedere, bisogna tornare a fare che tornei delle nazionali in post-season e non in pre-season, perché questo toglie ai club, che sono, non dimentichiamocelo mai, quelli che fanno andare avanti il basket perché ci mettono i soldi, tolgono i giocatori più rilevanti, quelli su cui si basa la squadra, non solo gli italiani ma anche tutti gli altri che sono nelle altre nazionali, tolgono dall'inizio della stagione, il che vuol dire cominciare a giocare bene intorno a Natale. Quindi questa è la prima cosa. Invece in post season giocano, saranno stanchi, però comunque giocano, e poi hanno tutta la pre-season da fare. Certo, questo vuol dire che bisogna fare i conti anche con l'NBA, con i giocatori che vengono dall'NBA. Secondariamente, sì, è vero che 20-25 giocatori mancavano quest'estate. Da questo a fare tutta la fatica che abbiamo fatto con Finlandia e Ungheria, con cui abbiamo perso Bulgaria, magari ce ne corre. Quindi è stato anche un momento difficile. Non sto assolutamente parlando né di gestione tecnica né di gestione atletica né di ragazzi, che è andato tutto e ci mancherebbe altro, però evidentemente in un torneo breve bisogna anche cogliere il momento particolarmente felice per vincere alcune partite. Dopodiché il problema adesso si configura nel battere la Francia, ovvero sì, un'altra squadra che ha lo stesso numero di giocatori NBA, se non di più dei nostri, anzi senz'altro di più, guidati da un certo Tony Parker, se ci sarà, e quindi da una stella conclamata dell'NBA pluriannellata. Quindi sarà difficilissimo, anche se devo dire, con un quintetto con i tre NBA più mettici Hackett, Vitali o Mordente o Poeta o chi vuoi come playmaker, manca magari il centro di altissimo livello, però fra Rocca, non so se Eze sarà disponibile, Stonerook, naturalizzati diciamo nel ruolo di centro, credo che il quintetto sia buono lo stesso, speriamo in bene. Io continuo a pensare che ad esempio uno come Michele Maggioli con un quintetto così potrebbe ma sai cos'è? Che i Maggioli sono dove ne abbiamo tanti, perché noi parliamo di questi qui, cioè, c'è Gallinari, c'è Bargnani, c'è anche Gigli, che sono tutti giocatori di quei 3.5-4 che sono tutti lì, e Maggioli più o meno anche quello, magari un po' più cinquevole, però non è tanto un giocatore spalla canestro, un giocatore fronte canestro. A noi servirebbe proprio il pilone. Eze sarebbe il giocatore ideale, credo. Ci sono due messaggi che mi sono appuntato. Il primo è questo: rispetto agli anni 80, l'NBA è come il nostro calcio, 30 squadre sono troppe, ognuno ha al massimo uno o due campioni, i talenti si disperdono. Direi che su questo possiamo essere d'accordo. Sì, non so com'è il calcio, ma certamente rispetto allora ci sono più squadre, ma sai, più squadre perché ci sono più partite, c'è più spettacolo, c'è più ecumenicità del basket, sono tutte cose che vanno soppesate l'una e l'altra. Io credo che la differenza sostanziale fra gli anni 80 e adesso sia che i giocatori che vanno all'NBA non hanno 4 anni più altri 4-5 di high school, quindi no, 8-9 anni di apprendistato fra school e college, che li porta ad essere dei conoscitori del mestiere che fanno. Adesso sono degli interpreti, ma non tanto conoscitori del mestiere che fanno. E il secondo messaggio dice: quali coach insegnano ancora la tecnica? Ormai gestiscono gli scarti del mercato americano, che più che saltare e tirare la raffica non sanno fare. Una delle ultime squadre in Italia che aveva un gioco e giocatori che giocavano assieme è Livorno di Banchi, con Igigena e Podestà, scrive Giacomo da Ivrea. Integralista forse. Sì, forse sì, però secondo me il concetto di base ci sta anche questo. Io dico una cosa, anche perché scusa, dicevo questo per integrare il discorso. Ai tempi in cui allenavi tu, allenava Dan Peterson, insomma la grande epopea della Milano delle scarpette rosse, arrivavano anche più campioni dalla NBA nel nostro campionato rispetto ad adesso. Beh, allora si diceva che Milano era la 25esima squadra NBA. E certamente eravamo fra le prime d'Europa. Adesso l'Italia non è certamente fra i paesi primi in Europa per motivi finanziari, perché Russia, Spagna, Grecia ci sovravanzano perlomeno nei club di vertice. Ma il problema secondo me si configura in una diversa maniera, cioè neanche noi avevamo il tempo di fare dei gran fondamentali, dei gran lavori individuali una volta arrivati in Serie A. Il problema è che a noi arrivavano giocatori che sapevano già tutto, cioè noi potevamo dire a un giocatore, per dire, fai perno destro, virata, passo e tiro, e questo sapeva perché nel suo bagaglio tecnico l'aveva imparato e metteva dentro quella casellina lì e poteva eseguire. Adesso francamente credo che la cosa sia abbastanza improbabile, perché se uno gli dice quello, gli dice scusa, di che lingua stiamo parlando, e probabilmente ti arriva la bottiglietta dell'Enervit in faccia. Sì, diciamo che il livello degli istruttori era differente, insomma arrivavano che conoscevano già la palla. Ti arriverei a dire, allora c'era l'istruttore, adesso non ci sono più, perché anche i ragazzi non avendo uno sbocco devono subito per guadagnare, devono subito allenare squadre per vincere, non c'è più lo spazio per vivere, campare insegnando, perché è anche un problema molto più globale di scuola, di anche di crisi internazionale, perché no. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo insieme, abbiamo ancora una decina di minuti per ascoltare Franco Casalini, che peraltro prima ho scoperto, già ve lo dico così magari poi intervenite, ne parliamo, non lo sapevo, integralista sulla questione tiro da tre punti. C'è chi dice più indietro, c'è chi dice... Lui dice togliamolo, no Franco? L'ha messo nell'84, dall'84 e mezzo che lo odio. Palla spicchi. Eccoci tornati, dunque, poi parliamo del tiro da tre punti, magari lo facciamo anche con un signore che... Era mediamente esperto. Che qualcuno l'ha fatto. Adesso fa l'assistente di Repesa a Roma, ed è secondo me uno dei motivi per cui Roma ha fatto dei passi enormi verso Siena. Non so se l'abbia già raggiunta. Nando Gentile, buon pomeriggio. Ciao Nando. Buongiorno a tutti. Uno dei motivi, appunto, Nando Gentile nello staff a fare il nome tutelare, ad esempio, di Brandon Jennings. Come sta andando il ragazzo, Nando? Bene, alterna un po' partite eccezionali da meno buone, perché è giovane, ci vuole un po' di tempo, c'ha bisogno di capire dove si trova, perché è praticamente una valenza totalmente diversa rispetto all'America, quindi piano piano sta migliorando e vedremo i frutti, penso, dopo le vacanze di Natale. Cosa ne pensi, Franco, di Jennings e del lavoro, dell'importanza del lavoro di Gentile su Jennings? Sarà probabilmente la chiave di volta della sua carriera, perché se in questa esperienza unisce al fattore agonistico che non avrebbe avuto con le stesse pressioni in un college, l'avrebbe avuto ma non con la stessa tensione che si ha qui. Se a questa tensione agonistica riesce ad aggiungere anche quotidianamente gli insegnamenti che Nando potrà fornirgli, magari anche con l'esempio visivo, allora può davvero fare il botto. Il botto, sì, beh, andare dove immagino che abbia intenzione di andare, cioè nell'NBA ad altissimo livello. Io volevo chiedere a Nando questo, se questo discorso fatto per Jennings si può allargare anche globalmente alla squadra, cioè una squadra che è in grado di fare partite splendide come quella vittoria e poi invece magari come quella precedente in campionato offrire delle prestazioni certamente non di alto livello, diciamo alla ricerca della continuità potrebbe essere uno slogan, Nando. Ma sai, noi dipendiamo molto dal lavoro in palestra, questo è lampante, è una squadra giovane che ha bisogno di lavorare in palestra. È chiaro che giocando in coppa, giocando in campionato, tra trasferte, viaggi, non c'è tanto tempo per prepararci in palestra, però ti dico, tutte le volte che noi abbiamo preparato delle situazioni in palestra e abbiamo avuto tempo di lavorare, la squadra ha risposto sempre molto bene, quindi è solo questione un po' di tempo, di prendere un po' di esperienza in più per i nostri giocatori giovani. Nando, ha lasciato delle tracce questa settimana almeno 20 di domenica? No, assolutamente no, assolutamente no, perché noi siamo una squadra che quest'anno vuole arrivare fino in fondo, abbiamo degli obiettivi molto alti, molto importanti, quindi è stata sì una lezione che ci servirà per il futuro sicuramente. Lo Gentile potrà fare gli scongiuri, non, per radio non si vede. Franco, Sasha Djordjevic una settimana fa ci diceva, ha già fatto il pronostico, Roma batterà Siena nella finale scudetto. Non chiedete pronostici a me, se no mi suicido in diretta. Ma secondo te è tanto o è realistico? Cioè, la vedi pronta per competere veramente con Siena? Ma sicuramente oppure no? Sì, ma sicuramente sì. L'anno scorso avevo una squadra molto diversa e a mio modo di vedere molto più incompleta ed ha perso 4-1. Quindi non manca molto per giocarsela ancora più. Certo, Siena è Siena, perché ha messo dentro due acquisti che sono stati fra i migliori contro Panathinaikos e anche a Roma, se non sbaglio. Quindi, insomma, stiamo parlando di una grande squadra, di una grande entità che si conosce profondamente. Roma deve fare in fretta a conoscersi e a giocare, poi se la giocherà senz'altro. Siete pronti, Nando? Ma sai, è chiaro che noi prima di Siena dobbiamo battere anche le altre, non esiste solo Siena nel campionato, sicuramente Siena ha quello che ha in più e sicuramente c'ha quel nucleo giocatore che è insieme a tanti anni e con questo, sai, ogni partita riescono a riconoscere le difficoltà di ogni partita perché si conoscono molto bene e hanno questo vantaggio, però noi onestamente ci proveremo fino alla fine perché abbiamo la possibilità e poi abbiamo il tempo. Nando, ti chiedo ancora questo, da allenatore a allenatore, Franco Casarini il tiro da tre punti lo abolirebbe, tu che qualche tiro da tre punti l'hai segnato, qualcuno e che adesso fai l'allenatore, come sposi questo pensiero oppure no? Ma sai, purtroppo la pallacanestro è cambiata, ormai vediamo i pivot che tirano tranquillamente da tre punti, quindi è lì il problema, sì, è chiaro che c'è poco. C'è poca lettura nel gioco, c'è molta qualità nei giocatori, nei singoli giocatori, però non si vede un gioco di squadra sicuramente come si vedeva prima, una struttura di squadra diversa, però sai, il tempo è cambiato, chi non è pronto ora a fare questo avrà dei problemi sicuramente. Grazie Nando, buon lavoro, a presto. Grazie. Ciao Nando. Grazie Nando Gentile, dunque, beh insomma, signor allenatore, avete più o meno lo stesso pensiero, no? Cioè, ma sì, è chiaro che stiamo parlando di un paradosso, perché il tiro c'è e sa da prendere e sa da gestire. Io conto i giorni in cui almeno si allungherà di, manca meno di un anno, si allungherà di un metro la distanza e allora avremo due anni, magari uno o due anni di pace tecnica. Sì, è la stessa cosa che è successa dopo il 1984 quando è stato sì, anche se allora, da tre. Allora era trauma perché da zero averlo. Però anche lì dopo un paio d'anni si è adattati e quindi dici tu avremo almeno un paio d'anni di pace tecnica. No, sono stato ottimista, forse avremo sei mesi. Anzi, già nell'estate prima, si allenano prima, comincia già pronti via a sparacchiare da 8 metri, sarà una meraviglia. Franco, siamo quasi in chiusura, ci resta un argomento. Meneghin presidente, sì. Per il futuro della nostra pallacanestro. Beh, intanto voglio dire, quando sarà, se sarà, e sarà, perché lui è accettato e tutti lo vogliono, e chi non lo vorrebbe, in Papuasia ci sarà la notizia di Dino Meneghin presidente della Federbasket italiana. Sì. Chiunque altro di noi nel mondo italiano non è una notizia che non sarebbe stata data, quindi vuol dire che la visibilità del basket italiano con Meneghin presidente avrà una esplosione. Da questo poi però a risolvere i problemi naturalmente ci vuole molta molta compartecipazione di tutte le componenti, e quindi Dino da solo non potrà fare tanto. Certo, no, è ce l'ha che... anche detto, ce l'ha anche detto l'altra settimana, il problema, lui dice, per trovare un buon accordo bisogna che tutti rinuncino a qualcosa, perché altrimenti non è un buon accordo, e lui ha trovato per adesso molte resistenze da questo punto di vista, quindi avrà sicuramente un lavoro. La federazione a cosa rinuncia, l'ha detto? Bisognerebbe richiederglielo la prossima volta. Chiedo una domanda, non voglio far polemica. No, bisognerebbe richiederglielo la prossima volta. Però ecco, lui per partire è chiaro che i club, i giocatori dovrebbero cominciare almeno a essere meno integralisti. Sì, però vedi Flavio, come ci ha detto anche Charlie Recalcati, cioè alla fine serve chi dice va bene, non troviamo l'accordo, si fa come dico io. Ma stiamo parlando di accordo per i giocatori tanto per cominciare. Sostanzialmente tanto per cominciare. Ma io sono dell'idea, ormai la butto lì, tanto è sorpassata dagli eventi in maniera clamorosa. La Serie A deve essere un campionato libero, professionale, perché tutti devono avere il meglio. La A2, la Serie B1, chiamiamola come volete, allora lì sì che ci vogliono gli italiani, ci vuole la costruzione dei giocatori. Però onestamente, se io presidente di una squadra spendo 7-8 milioni di euro all'anno e poi sono costretto a far giocare Piripilli perché, sì, sì, perché è scritto per statuto che deve giocare, non dico che smetto, però insomma ho qualche perplessità di spendere, l'anno prossimo ne spendo 5 di milioni di euro. No, ma io sono d'accordissimo con te, cioè Serie A campionato libero. Per non parlare della follia dei due o tre italiani in campo. Gli italiani si adeguano alle leggi del mercato comunitario, esatto. Quindi nessun protezionismo e si va a condizioni di mercato, esatto. Puoi giocare in Italia, gioca in Italia. Tanto più che non c'è mai stato un giocatore tarpato perché ci sono stati, chiaro. Perché anche i tempi, fra l'altro vabbè ce n'era meno, ma Nando ha giocato titolare a 18 anni, Antonello Riva, idem, Meneghin, lo stesso Dino, era quasi in nazionale per Messico e ne aveva 18 di anni, quindi se sono forti i giocatori vengono fuori. È chiaro che bisogna tutelare tutti, anche i non forti, ma come ripeto, sbaglierò, ma non mi sembra ci siano molti giocatori disoccupati italiani. Franco, siamo in chiusura, Sky permettendo, un giorno torni a trovarci. Volentieri, è stato un piacere, un divertimento. Ovviamente reciproco, è stato un divertimento soprattutto per i nostri ascoltatori. Grazie a Franco Casalini, Flavio Suaro come tutti. Sempre con me, e Fabio Cantadori in regia, Gigi Borghi in redazione. Ci sentiamo con Palla Spicchi venerdì prossimo, con lo sport ovviamente da domani e domenica facciamo il pieno.